Buonasera. Aia, ci sei allora? Tre ore chiamando e tornerai in luogo. Chiamando, tanto babbi. E allora, cazzo, non ha sentito la voce e la portante. E torni in luogo, in giro eria. No, ero a Cortende, l'ero reso. Ho capito. Mi sembra che stanno facendo controlli, così è. Non ci ho preso nulla. Raccontate a voi in FM. Infatti, sono in FM, sono. Tutto fa brodo. E io non credo, punimmo, tutto canto. Allora, cazzo. Sono noi non fanno in FM, gli altri fanno tutti in FM, boh! E cosa vuoi fare? Vuoi andare in FM? Andiamo in FM? Ah, provare a fare un po' come è, boh! Prova a vedere! Proviamo!